Yahya pasal 16. Ngamila boti polele umai ode oli mongoli, alihu timongoli tatapu paracaya ode olau. Timongoli ma ente lalio momasa ode bele hepotabialo. Wa uma medugamai waku tulio, titalo tita tamu hingi nyawa li mongoli, tio hemo nganggapu de uhuhu tulio boito, ibadati ode Allahu ta'ala. Timongoli ma mohutu odito ode oli mongoli, sababu timongolio dilamo totalo Allahu ta'ala ti papa mealoa'u. Bonga amila pasali boti, ma pilo lele umai ode oli mongoli. Alihu medunga waku tulio, ma o elawa li mongoli, de uwa umalo po ela oli mongoli to mimpihu pasali boti. Ti isa lolo ia poli odie. Wa udi polo polele mai lo pasali boti ode oli mongoli, to ubo-ubo huwa li olomai. Sababu wa udongo pepe enda oli mongoli. Bawa uma satia ma mona ode olio, talo po ahumai olau. Wau dialu ngota ma'o, to wolo tali mongoli, talo hindu olau, ode utonu po na wau. Hilali mongoli ma mololo, sababu wa umalo polele mai nga amila pasali boti ode oli mongoli. Openu odito, wa umo polele mai lo ubanari ode oli mongoli. De unona o uboti lebe ohunalio ode oli mongoli. Sababu wonu wau dila mona'o, tama turungi baito dila mona amai ode oli mongoli. Bawon wa umo na'o, wa uma mopo ahu mai olio ode oli mongoli. To utio me dungga mai, tio mamo tombanga ode tau tau wala to dunia boti, de upahamu li mongolio, tilala to mimpi hudusa, to mimpi hubanari, wa to mimpi hukumani. Pahamu li mongolio to mimpi hudusa tilala, bukti lio ti mongolio dila paracaya ode olau. Pahamu li mongolio to mimpi hubanari tilala, bukti lio wa uma mona ode Allahu ta'ala ti papa, wau timongoli dilalo mo ondo olau. Wau pahamu li mongolio tilala olo to mimpi hukumani, bukti lio ta kawakawasa to dunia boti, mahi lukumani lo Allahu ta'ala. Dongkongo hundua poma umusi lo ia umai ode oli mongoli. Boma satia boti timongoli di pomampo mololimo. To uroh lo ubanari medunggamai, tio mamo potunumai oli mongoli ubanari nga amila. Tio dilamo polelemai lo umonto batangalio lo hihilao. Bawolo uma ilo dungohelio, uito uma polele lio mai ode oli mongoli. Tio mamo potota amai ode oli mongoli, lo uma moali to dulahe hedunggawa mai. Tio mamo pomasahuru olau, to utio mamo potota amai ode oli mongoli, wolo uma tilo limo lio lonto olau. Nga amila hakulo Allahu ta'ala ti papa ito, uolau. Witolo patujuu, lolo ia de utio mamo potota amai ode oli mongoli, wolo uma tilo limo lio lonto olau. Ti isa lolo ia poli odie. Bolongo pe emola, ti mongoli dilalo mo onto olau. Bo bolongo pe emola olo, ti mongoli mamuli mo onto olau. Lapata amuri lio ngololo ta yi intua odie. Wolo uma kusuduo lio lolo ia odie. Bolongo pe emola ti mongoli dilalo mo onto olau. Wau bolongo pe emola olo ti mongoli mamuli mo onto olau. Wawolo uhma kusuduo lio lolo iya odie. Wa uma munao ode Allahu ta'ala ti papa. Lapata au ti mongolio lolo iya odie. Wolo maksudu lio lolo iya. Bolo ngope mola. Itu dila mengarati wolo uhe patuju olio. Ma au tawali isa ti mongolio uhila mohindu olio. Tio lolo iya odie. Uhe po bisa lawali mongoli boti. Pasali uilo iya umai ingondie. De ubolo ngope emola ti mongoli dilalo mo ondo olau. Wa ubolo ngope emola olo, ti mongoli mamuli mo ondo olau. Tutulio tutu polele umai ode oli mongoli, ti mongoli mahumoyongo, wa umololo. Bo dunia bo ti mame ngahu. Ti mongoli mahasusa, bo ususa li mongoli baito mamo gandia lo ngahu. Wonu tabu angota mangope emo tutu, tio susa, sababu duto-dutola umongongoto. Bawonu tio ma ilapato lo tutu, didu o elalio ususa boito. Tio ma wengawengahu, sababu wala iyo ma pilo tutulio mai ode dunia boti. Odito olo woli mongoli, ti mongoli masatia hesusawa. Bawa umamuli me momilohe oli mongoli. Tunggulo hilali mongoli ma mawali mengahu. Wau dialu ngota mao, ta mohama wengahi mongoli baito monto oli mongoli. Todulahe boito, di duluo tua uma uinduo li mongoli olau. Tutulio tutu palele umai ode oli mongoli. Nga amila upohile li mongoli ode Allahu ta'ala ti papa tode lomo tangguluu. mawohimai lo Allahu Ta'ala ti papa ode oli mongoli. Sampai masa tia, dipoluo upilo hile li mongoli tode lomo tangguluu. Pohile ti mongoli, wau ti mongoli mamololimo, alihu ti mongoli mengahedaa. Ti isa lolo ia poli odie. Nga amila boti pilo po sampe wo umai ode oli mongoli moli lumadu. Boto wakutu tuau, wau dilalo mo po sampe umai moli lumadu. Sababu pasali lo Allahu Ta'ala ti papau, diduhulio ode oli mongoli. Todulah hebo ito, timongoli mamohile ode Allahu Ta'ala ti papa, tode lomo tangguluu, wau dilalo paralua umohile ode oli papa moturungi oli mongoli. Sababu Allahu Ta'ala ti papa lohi hilawo, motoli angi mongoli. Allahu Ta'ala motoli angi mongoli, sababu timongoli motoli anguu, wau paracede wau londo Allahu Ta'ala. Memangi wau londo Allahu Ta'ala ti papa, wau lo na omai ode dunia boti. Lapatioma wau mamolo lama dunia boti, wau mamuli mohuwali ngamola ode Allahu Ta'ala ti papa. Murili isa lo bisala ode olio odie. Banari guru, masatia ito ea, hemosilita wala udila tohulia, wau dila lo make lumadu. Masatia mautawa lamiatia, deu ea motota lo uhe tua tua ua, wau amiatia dila paralu muhindu ode ito ea. Witolo sababulio amiatia paracaya, deu ito ea londo Allahu Ta'ala. Ti isal huindu ode oli mongolio odie. Delo banari ti mongoli masatia paracaya. Oto taima o, wakutulio mamedunga, wau maledunga. Ti mongoli mapopobu ayolio, wau ti mongoli mamohualinga ode tambati li mongoli ngota-ngota. Wau wau maatolama oli mongoli tutuau. Bo openu odito, wau dila tutuau, sababu Allahu Ta'ala ti papa uwolau. Nga amila pasali iboti, pilolele umai ode oli mongoli. Alihu ti mongoli mololimo udame wau sanangi, sababu ti mongoli tuau uwolau. Todelomo dunia boti, ti mongoli modutola ususa. Bopo polia tua lomola hilali mongoli. Dunia boti ma ilola heu.